fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, buonasera a tutti, buonanotte o buongiorno, in base a quando ascolterete queste voci e queste parole. Buonasera da Master Nick, sabato 14 luglio del 2018, questa è Risto Radio Convento e come di consuetudine, essendo il nostro motto per raccontarsi, per raccontare, andiamo a raccontare un po' di questa serata, come dalla voce dei protagonisti, dei partecipanti, di coloro che l'hanno fatta e resa speciale. E sono i nostri festeggiati, i nostri sposi, le nostre spose, insomma tutti coloro che hanno un motivo per fare festa da noi. E esordiamo con una delle protagoniste di questa serata, una futura sposa, le diamo il benvenuto. Ciao! Ciao a tutti! Come va? Bene, bene! Bene? Senti carica, energica? Sì, carichissima! Carichissima! Come ti chiami? Valentina! Valentina, benvenuta, da dove vieni? Da Crema! Crema, che è vicino a... Ah, Cremona. Cremona, per giustamente, perché chiamandosi Crema non poteva star vicino a Catania o Catanissetta. Molto bene. Allora, cosa festeggi qui da noi, anche se un po' ho già svelato qualcosa? Il mio dio nubilato. Il tuo dio nubilato, ti sposerai quando? Il 4 agosto. Con? Daniele. Oh, data particolare questo 4 agosto, sarà molto calda, cioè avevate già pianificato un... No, sono rimasta incinta e quindi è stata una cosa... Hai accelerato, diciamo che sì. hai messo la quinta esatto. E hai dovuto accelerare. Esatto, esatto. Di quanto, se posso chiedere? 6 mesi e mezzo. Ah, quindi ci siamo... A ottobre il termine, quindi appena da sposati, poi hai... Esatto. Sei il tipo che ha voluto sapere o che è rimasta nell'incognito? No, maschietto. Hai saputo? Sì. Hai voluto sapere? Voluto. Hai voluto sapere? Fammi un po' capire, come mai? Cioè, nel senso, al di là, togliamo l'aspetto pratico, cioè quello di comprare cose blu magari rispetto a cose rosa e, no, e sapere dove indirizzarsi. Cosa ti... Cioè, per quale motivo ti viene voglia di sapere una notizia così importante? La curiosità. Curiosità. All'inizio siamo partiti anche noi dicendo no, non vogliamo saperlo, ma poi una volta che... Non ce la fai. No, non ce la fai. Non ce la fai. E da quand'è che si può chiedere di sapere il sesso? Dal quarto, quinto... No, il quinto mese. Ah, quinto mese. Si inizia a vedere. Quinto anche mese. Prima, però magari alla morfologica, al quinto mese. Sì, morfologica, giusto? Giusto, loro sono esperte di morfologica, ne fanno 3 a settimana di morfologiche, le prendono dopo i pasti perché vanno prese sempre a stomaco pieno, confermate? Confermiamo. Le morfologiche a stomaco vuoto ti distruggono la digestione, poi cioè sei pesante, capito? È così. Bene, dopo questa bellissima parentesi sulla morfologica, e avete anche già deciso magari il nome? Ah, già deciso, così, tutto. Se era un maschietto, era Vittorio. Ah, avete già scelto il Vittorio. E c'è qualche parente in giro per cui avete scelto questo Vittorio? Era il nonno del mio... Ah, ecco, perché quindi avete mantenuto la tradizione come dire, di lasciarsi anche ispirare dall'albero genealogico e dai parenti del passato. E anche lui è della tua zona, di Crema o... Lui è di Lodi. Okay. Vicino. E come vi siete conosciuti? A ballare in discoteca. In discoteca? Davvero? Quindi confermate che c'è ancora l'usanza, chiamiamole così, non si è perso quel modo di conoscere le persone in discoteca? No, assolutamente. Perché ammettete anche voi, potete far parte di questo piccolo sondaggio. Soprattutto che Martina. La Martina? Dice che la Martina frequenta le discoteche, ma ancora... Cioè, sempre quelle sbagliate però, perché l'uomo della sua vita è sempre in quella vicino. Non è ancora andato in quella giusta. No, volevo un attimo capire se confermate che c'è comunque un po'... Siete un po' schizzinose voi in discoteca? No? È vero. No? No? Siete... È l'uomo che deve essere bravo a corteggiare. Ah, e beh, quindi... Ah, ok, quindi vi fate desiderare, che è diverso. Vabbè, sì. Vi fate la un po' desiderare. La donna sceglie, poi l'uomo è bravo. Mi piace, la donna sceglie e mi piace. Quindi la donna che decide da chi farsi accalappiare, diciamo così. Sì, esatto. Ah, ho capito. Perché avete sempre un po' quell'atteggiamento in discoteca da, come dicevo prima, un po' la schizzinosa? No, lasciami stare, no, voglio stare tranquilla, no, voglio ballare, vai via. Non è così. No. Non tutte. A te com'è capitato, ad esempio? Io l'ho incontrato così per caso, abbiamo attaccato un bottone e poi un cocktail, 2 cocktail, 3. Bellissimo. Mi piace quanto sia forte questo sentimento e questo interesse basato sui cocktail. Per gioco, poi pian piano dopo 4 mesi abitavamo insieme. Ah, però, quindi presto fatto. Da quanto vi conoscete? 3 anni. Anche qui, poco, non è tantissimo. E adesso sentiamo anche le amiche, adesso non so se collego amico cosa, sul discorso discoteca, dai, mandate anche la vostra sensazione studio femminile. Una delle due, nessun problema. Vai. aspetta, presentatevi, raccontate chi siete. Io sono Laura. Io sono Martina. Bene, molto bene, tanto nessuno vi vede, quindi infatti potete essere un po' chi volete. Ok. Come funziona in discoteca? Guarda, onestamente io vado proprio solo per ballare. Ah, non te ne frega niente. Me ne frega niente, 12 anni proprio... di fidanzamento, quindi va benissimo. Sei a posto. Beh, però ti fa ancora andare in discoteca. Certo, ci manca. Quindi vedi che comunque sia, è un buon fidanzamento, certo, questo, che non sì. c'è libertà che è quello che conta. E Desperate Housewife lì, che ho già capito che è in condizioni tragicomiche. La tremenda del gruppo. Sì. Ah, io vado in discoteca, mi diverto con l'amica, quello che succede succede. Eccola, vedi. Ciò che succede in discoteca. Cioè, rimane in discoteca, esatto. E puntualmente il giorno dopo non se lo ricorda, però. Quello che si fa in discoteca resta in discoteca. Bene. E che discoteche frequentate? C'è la zona di Crema. Ce ne sono un po'? Particolare. Che si chiama? Vai, facciamo lo spoiler, magari la prossima. La magica. Quindi magica, mi raccomando, la prossima volta che si presenteranno loro, almeno un cocktail offriteli, no? Perché abbiamo fatto. Carlo, offrici un cocktail. Carlo, addirittura proprietario conosci? No, o il barman. Ci siamo cresciuti. Ah, che bello, dai, quando un posto anche diventa un po' casa propria, è carino. Allora, e quando. L'hai già detto, il 5 agosto che vi sposerete, dove? Il 4, dove? A Bagnolo Cremasco, che tutto lì, tutto in zona, tutto bello, tutto in zona. Avete anche, magari no, perché ho visto che le condizioni sono cambiate, pianificate un viaggetto, un qualcosa? No, andiamo una settimana lezione, giusto per fare un qualcosina, poi una settimana cattolica con gli amici. Ah, ok. Però poi il vero lo faremo poi. Quando sarà il momento, anche perché dicevo, sono cambiati immagini e piani rispetto a quello che avevate in mente. Allora, chi c'è qui con te? Ce le vuoi presentare? Allora, la mia testimone, Martina, e una mia carissima amica Laura. Ok, poi però so che non siete sole perché eravate parecchi al tavolo. Chi c'è ancora? Dici un po'. Ci sono l'unico ragazzo della serata, Andrea. Detto antifurto, perché prima l'ho sentito urlare, praticamente tutti i delfini di Cattolica sono arrivati qui, perché richiamati dagli ultrasuoni del loro amico, veramente ha un urlo. Sara che è qua dietro che bussa al che bussa, bene, che è innamoratissima di voi, perché non vi lascia stare un minuto, continua a vedervi a guardare. C'è Giada, Erika e Sara. Oh, bene, tutte amiche, qualche collega, qualche parente? Tutte amiche. Le amiche di vecchia data o conosciute poco tempo fa? Certe non da poco, certe da tanto. Ok, quindi un po' un misto. Sì. Quante amiche sono diventate amiche quando hanno scoperto che stavi per diventare mamma? E volevano magari coccolarsi il futuro bambino? Quante amiche sono andate via quando hanno scoperto che dovevano... Non ci sono qui adesso. c'è un motivo se non sono qui adesso, giusto? Sì, va bene, allora dai, siamo quasi in chiusura, volete approfittare per salutare qualcuno, dire qualcosa, visto che avete... Saluto il mio patatino che sta facendo la dieta di pato. Mi dicevi, aspetta, dov'è che è? Lui è Monica Delgado. A Monica, quindi vicini comunque, cugini. Insieme al suo ragazzo, sì, esatto. Insieme? Al ragazzo di Laura. Ah, infatti dicevo, al suo, infatti, cioè, mi mancava un pezzo. Non ha nessuno, Martina è single, facciamo un appello per Martina. Vai, Martina, dai, dedichiamo 4 secondi a Martina. Allora, velocissima. Dai, Martina. Intanto partiamo dalle domande semplici. Sei in cerca o sei nella fase me ne frego di tutto e di tutti? Un po', va bene. Allora, cambio la domanda. Se uno dovesse farti perdere la testa, come dovrebbe essere? Quella è la prima cosa. Ah, condizione essenziale. Cioè, non conta che abbia la seconda elementare, che non sia un disperato. Basta che abbia il risvoltino e tac. Cioè. E le trafigge il cuore. Beh, no, io credo che sia vero. Poi sei tu a negare o meno quanto detto. È vero. È vero. Ah, ok. Quindi il risvoltino lo confermiamo. Età indifferente o c'è un range da A? 20-30, quindi 25-30, ok, quindi anche una, come dire, una no, di bocca buona, diciamo così, nel senso che non ha grossi problemi di età. Vabbè, bella. 25 anni, dai 25-30. Perfetta. Altre caratteristiche che ti fanno perdere la testa? Benissimo, perfetto, questo silenzio già racconta tante cose e racconta anche il motivo per cui stai ancora cercando, perché non hai ben chiara l'idea dell'uomo della tua vita. Questo Dai, mi sono appena lasciata, con calma. Ah, con calma, allora no, allora è giusto che tu ti... Sarà 60 anni proprio per non perdere. No, ha detto che nel 2021 del marito. 2021, hai già messo la data? Bimbo e matrimonio. Con calma, mi sono appena lasciata. No, allora fai bene a prenderti il tuo tempo. E no, siccome loro spingevano per Martina che è in cerca, io ho cercato di dare una mano. Ma si va tutto in gruppo. È giusto. Va bene, ok, voi volete salutare qualcuno? Volete dire qualcosa? No, bene, fregato, benissimo. Bene, mi piace questo atteggiamento nei confronti della vita, comunque sempre molto combattivo. Va bene, allora vi lascio andare a divertire, a ballare, anche perché dovrete cantare tra pochissimo insieme al karaoke. Un saluto ancora alla nostra Valentina e tanti tanti auguri per il futuro matrimonio e poi per tutto quello che succederà dopo, visto che... Grazie mille. Ci sarà questa lieta notizia, lieto ingresso nella loro vita. Buona serata, alla prossima.